Quando diciamo search marketing, a che cosa facciamo riferimento? A tutta una serie di tecniche e tecnologie molto complesse, ma se volessimo tradurre e spiegare di che cosa si tratta, come lo spieghiamo? Sintetizzandolo potremmo dire che è il marketing che viene fatto attraverso i motori di ricerca o usando i motori di ricerca come strumento. Quindi semplicemente le tattiche del marketing tradizionale applicate su un canale che è quello internet, nello specifico all'interno dei risultati dei motori di ricerca. I motori di ricerca sono oggi molto importanti nel contesto della navigazione, cioè quando noi navighiamo, è un'esperienza comune, ma ci sono anche dei dati che lo dimostrano, il motore di ricerca è importante, tanto che molte, adesso non so qual è la percentuale precisa, molte delle pagine visitate sono visitate grazie ai suggerimenti di motori di ricerca. Sì, come hai detto giustamente Enrico, l'esperienza quotidiana che ognuno di noi ha è nel motore di ricerca come mediatore fra le cose che stiamo cercando e tutta la grandissima mole di informazioni effettivamente presenti sulla rete, su internet. Il motore è l'unico veicolo attraverso il quale possiamo esprimere un nostro bisogno informativo fondamentalmente e ricevere una risposta fra tutte le possibili. E qua scatta il problema: fra tutte le fonti di dati o di informazioni relative a quello che stiamo cercando, il motore ce ne propone alcune. Capire come mettere più in evidenza quello che facciamo è oggetto del search marketing. Un'altra cosa interessante è capire, immagino che anche nella vostra esperienza sia un dato disponibile, quando noi digitiamo, che ne so, la parola casa oppure la parola paperino, vediamo una serie di risultati della nostra ricerca. A volte ci sono 10 pagine, 40 pagine di risultati. Conta essere presenti nella prima pagina, nella seconda pagina, nei primi posti? Questo è chiaro, insomma, ma fino a quanto? Sì, nell'esperienza quotidiana e anche dai dati che si ottengono facendo delle indagini di mercato, l'utente, circa il 70-71%, si ferma sulla prima pagina. E all'interno della prima pagina la stragrande maggioranza dei risultati che vengono cliccati sono i primissimi della pagina. Il discorso è un po' più sofisticato per quanto riguarda quali sono queste parole per le quali farsi trovare. Nel senso che a ogni singola entità, che sia non solo aziendale, ma anche, mettiamo caso, siamo in periodo di elezioni, pensiamo ai partiti politici o ai movimenti o ai singoli candidati. Quando un utente cerca di informarsi in merito a un tema di dibattito politico, è nell'interesse del pensiero del candidato o di un movimento farsi trovare. Bisogna cercare di capire quali sono le possibili ricerche che gli utenti fanno, sono moltissime, e ottenere una buona visibilità per tutte queste ricerche. Quindi potremmo anche dire che quasi quasi, se non sei sul motore di ricerca, cioè se il tuo sito internet, che sia di un partito, di un'associazione, il tuo sito personale, e a maggior ragione, poi capiremo anche per quale motivo, il sito di un'azienda non viene visualizzato nella prima, nella seconda, nella terza pagina, quasi quasi potremmo dire non esisti. Esatto, esatto, è clamorosamente esatto. Negli Stati Uniti, mixando la classica frase latina di Cartesio, si dice anche Google ergo sum, nel senso sono su Google perciò esisto. Se Google non mi indicizza, cioè non mi trova e non mi mette negli archivi e non mi consente di essere trovato, è come se non esistessi, perché il mio pensiero, il mio prodotto, il mio servizio, la mia idea messa in rete, se Google non consente di trovarla, essendo, come dicevi anche tu prima, la prima fonte di traffico per tutti i siti che funzionano, parlo di Google ma anche di Yahoo, di MSN Live, di tutti i principali motori mondiali, avere la possibilità di essere trovato diventa il fatto di esistere.